Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi raccontiamo una storia che potrebbe essere quasi giudicata alla stregua di un gossip. Riguarda una donna famosissima per la sua avvenenza fisica, per la sua attività di modella, ma soprattutto una donna che ribadisce quel principio non politicamente corretto per il quale alla fin fine le donne si siedono sul loro destino molto spesso, perché lei è conosciuta soprattutto per i suoi fidanzati, i suoi mariti, uomini molto in vista, ricchissimi, ammirati e denigrati da tutto il mondo, e poi, diciamo così, una carriera a salire. È una donna che è stata un'icona di moda, di bellezza negli anni 70-80, la supermodella per eccellenza. Ha fatto parlare di sé per essere partita già col piede giusto. È stata per 2 anni la fidanzata di Bryan Ferry dei Roxy Music, poi è salita di grado, è passata a Mick Jagger, 22 anni di convivenza e poi anche di matrimonio, 4 figli, e poi alla fine, colpo finale, 2016, Rupert Murdoch, l'84enne editore, imprenditore, produttore televisivo, e insomma non è certo una donna che si innamora degli impiegati delle poste o degli idraulici, categorie che invece noi apprezziamo umanamente. Avete capito, insomma, stiamo parlando della bellissima e affascinante Jerry Hall. Ci sono donne che più di altre sono consapevoli di se stesse, del proprio fascino. Non è solo questione di bellezza fisica, è avere coscienza e, come dicevo prima, coltivare la propria fortuna, trattare la propria bellezza come se fosse un prodotto in grado di promuovere la persona, di traghettarla verso un futuro di successi. E Jerry Hall appartiene sicuramente a questa categoria. Brillantissima carriera da modella, ma siccome era consapevole che la modella è una professione con una scadenza anche piuttosto rapida, gestisce al meglio le sue doti e fa le conoscenze giuste, e diciamo che si innamora di uomini con un certo peso. È partita dal nulla, però è considerata oggi una guru del fashion, in grado di dare consigli a tutte le donne su come vestirsi, su dove fare gli acquisti. Penso che ci si debba vestire in maniera appropriata. Non bisogna indossare pantaloncini corti o minigonne dopo una certa età. Ma per il resto, con la moda bisogna divertirsi. La cosa eccitante della moda nei negozi è che puoi guardare e comprare subito. È una gratificazione istantanea. Invece con le sfilate devi aspettare magari 6 mesi per avere quei vestiti. Nei negozi è molto più divertente. Jerry Hall nasce il 2 luglio del 1956 a Gonzales, in Texas. La madre è un'infermiera, il padre è un ex militare, eroe di guerra, fa il camionista di trasporti eccezionali, sostanze chimiche, tossiche, lavoro altamente pericoloso e poco gratificante, che lo porta a ubriacarsi spesso e a diventare violento. E vi faccio notare quante persone di cui abbiamo parlato avevano il padre alcolista, forse porta fortuna, non so cosa dire. E la vita non è facile per Jerry e per le sue 4 sorelle, in particolare per lei e la gemella Terry, le più piccole della famiglia, che il padre avrebbe tanto voluto fossero maschi e che quindi subiscono proprio la sua aggressività. Insomma, tutte e 5 le sorelle Hall se ne vanno di casa appena possono, e le ultime 2 sono proprio Jerry e la gemella Terry. Vanno in Riviera, a Saint-Tropez, su suggerimento della madre. Sono bellissime, bionde, sono alte più di 1,80 m, hanno un fisico statuario, non passano inosservate. Un agente di moda le nota sulla spiaggia e le invita a Parigi. Andai a Parigi, avevo 16 anni, fu una mezza follia. Non avevamo soldi, non conoscevamo nessuno, è stato eccitante ma anche spaventoso. Io amavo il Texas, ma venivo da una famiglia di tutte donne. Nostro padre era stato un sergente del generale Patton e faceva paura. Tutte noi ce ne andammo di casa appena possibile. Io fui l'ultima. Feci la mia valigia e me ne andai. Parigi era straordinaria. Sono stata molto fortunata. Paris was just amazing. I was so lucky. insomma, a 16 anni, forti solo della loro fisicità, attirate da una possibile carriera come modelle, Jerry e sua sorella andavano a Parigi, prendono in affitto una camera in un albergo che accoglie proprio le ragazze speranzose in un ruolo di fama, di fortuna nel mondo della moda. E difatti loro due dividono la stanza prima con Jessica Lang, che è un po' più grande di loro, ha 23 anni, sta facendo la modella in attesa dell'occasione giusta. Poi, quando lei se ne va, arriva un altro personaggio destinato a un grande futuro, perché la terza inquilina è Grace Jones. Vivevamo in una stanza d'albergo con tre lettini, separati da una tenda, e Grace venne a stare lì. Non aveva altro posto dove andare. Stava provando anche lei a fare la modella. Facevamo dei piccoli spettacolini per i nostri amici. Conoscevamo un sacco di drag queen. Cantavamo noi tre e tutti dicevano: «Oh, Grace, canti troppo bene! Dovresti fare la cantante! Sei davvero brava!» E difatti è diventata una grandissima cantante. And she turned out to be such a great singer. Il falco e il gabbiano. Jerry Hall inizia a frequentare la Parigi della moda, è un mondo affascinante, pieno di insidie, soprattutto quando si hanno 16 anni e nessuna esperienza, ma lei impara in fretta. Proprio grazie a Jessica Lang conosce Antonio Lopez, famosissimo illustratore di moda che lavora per Vogue, per Harper's Bazaar, per Elle, insomma le maggiori riviste dell'epoca. È molto amico di Karl Lagerfeld, insomma Jerry lo individua come ottimo punto di partenza e si fidanza con lui. È il primo di una lunga serie di uomini che, come dicevamo prima, sempre andando a salire naturalmente, uomini che avranno un ruolo fondamentale nella sua vita. Antonio la introduce nel suo ambiente, la carriera di Jerry Hall come modella parte proprio da lui. Primo colpo d'ala ben assestato, ma soprattutto Lopez la presenta a qualcuno destinato a cambiare la sua vita, il re di tutti i fotografi. Well, the first person I met was Antonio Lopez, who was a fashion illustrator. La prima persona che incontrai fu Antonio Lopez, che era un illustratore di moda e che mi presentò a Helmut Newton. Lui iniziò a fotografarmi. Il nostro primo lavoro era per la rivista Photo Magazine. Il servizio prevedeva che indossassi degli abiti di pelle nera. Continuava a farmi provare questi pezzettini di pelle e io gli dicevo: «No, no, sono troppo piccoli!» Alla fine mi mise una specie di tuta da gatta con i pantaloncini. Io scoppiai a piangere e gli dissi: «Non voglio fare foto pornografiche, io voglio andare su Vogue!» Lui mi rispose: «Questa non è pornografia, questa è arte!» Dopo un paio di settimane ero sulla copertina di Vogue Francia e da quel momento in poi ho iniziato a fare lavori bellissimi. E la collaborazione con un mostro sacro come Helmut Newton porta all'esplosione della carriera di Jerry Hall, che nel giro di pochi mesi diventa una supermodella richiestissima e soprattutto pagatissima. Le riviste di moda se la contendono, gli stilisti la vogliono, fare una foto con lei diventa improvvisamente il trampolino di lancio per i fotografi. La sua fama arriva in breve tempo oltreoceano, non ancora 18 anni quando firma un contratto a molti zeri con Eileen Ford della Ford Models di New York. Il suo volto compare su centinaia di copertine in tutto il mondo. Al tempo si diceva che fosse famosa quanto il Papa. Siamo nel 1975 e lei attira l'attenzione di uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi, il mitico Brian Ferry, frontman dei Roxy Music, cantante solista, e lui sta realizzando uno dei suoi album più belli e di maggior successo, Siren. Well, actually, I'd been doing these photographs in Jamaica with Norman Parkinson. Avevo fatto queste foto in Giamaica con Norman Parkinson per Vogue Inghilterra. Foto bellissime. E le foto uscirono in Inghilterra e tutti ne parlavano. Brian le vide e mi scelse per comparire sulla copertina del suo album Siren. Andai a Londra per fare le foto. Lo guardai e mi innamorai pazzamente di lui. Era bellissimo, affascinante. Ci mettemmo insieme, ci fidanzammo. Partecipai anche a un paio di suoi video, ma il mio preferito era Let's Stick Together. My favorite one was the Let's Stick Together. E mi ricordo perfettamente Jerry Hall che esce da una tenda bellissima e irrompe sul set del video di Brian Ferry. Lei ha 20 anni, Brian Ferry ne ha 31. Sono belli, famosi, sono ricchi, si amano, insomma, una relazione che fa il giro del mondo catalizzando l'attenzione pubblica. Però mano a mano che passa il tempo Jerry diventa sempre più inquieta, perché Brian Ferry è un gentleman inglese, veste abiti classici, si intende d'arte, un amante dell'antiquariato, insomma probabilmente vorrebbe vicino a sé una donna come lui, la perfetta moglie di un gentleman inglese vestita in tweed, che magari sorseggia un tè alle 5. Lei invece viene dal Texas, le piace andare alle feste, divertirsi, bere, ama il wrestling, è molto più giovane di lui, è poco più che una teenager. Forse Brian Ferry è un tipo troppo tranquillo per lei. Però attenzione, perché nella vita di Jerry Hall sta per entrare qualcuno che è anche più grandicello di Brian Ferry, ma che proprio tranquillo non è. Mentre Brian era in tournée in Giappone, andai ad un party a Manhattan e mi ritrovai seduta vicino a Warren Beatty. Dall'altra parte si siede Mick Jagger, che avevo già conosciuto l'anno prima. A quel tempo era ancora sposato con Bianca. Mick mi fece ridere tutta la sera. Dopo cena ce ne andammo al famoso nightclub Studio 54. Quel giorno era il 21 maggio 1977. Io e Mick l'avremmo festeggiata per i successivi 22 anni. Quella sera scoprii com'era Mick Jagger, gentile, divertente e affascinante. La cosa che più mi piaceva di lui era che sembrava davvero che non gliene importasse proprio niente di quello che gli altri pensavano di lui. Da quel momento iniziò letteralmente ad assediarmi. Immaginatevi come può fare la corte uno come Mick Jagger. Lei è spiazzata dalla sua forza, dalla sua vitalità, dalla genialità di uno come lui, che peraltro è molto diverso dal misurato Brian Ferry. Quello che fa sul palco Mick Jagger lo fa con lei, è esagerato, tempestoso, spiazzante, e poi non ha limiti di budget, e quindi le regala gioielli, le manda camion di fiori, la porta nei posti più esclusivi. Lei capitola, ma ha una sola condizione: la storia deve durare fino a quando Brian Ferry non tornerà dalla sua tournée. I loro incontri clandestini devono rimanere segreti, la cosa non è semplice, sono due troppo in vista, Mick Jagger si camuffa, si deve nascondere la bocca soprattutto, perché altrimenti lo riconoscerebbero, è una sua caratteristica. Però alla fine la tournée giapponese di Brian Ferry si conclude e lui ritorna. Mick e io ci salutammo tra le lacrime, Brian sarebbe tornato il giorno dopo. Quando lo vidi fui contenta, anche perché mi aveva portato un regalo fantastico, un meraviglioso braccialetto di smeraldi. Sperai di poter dimenticare Mick e di cominciare una nuova vita con Brian, ma non ci riuscivo. Mick mi mancava troppo. Così, con la scusa di un lavoro, lo raggiunsi a Parigi, dove aveva un concerto. Dopo lo show, scappammo in Marocco. Insomma, immaginate Mick Jagger e Jerry Hall che passeggiano per le strade di Agadir scambiandosi effusioni, non possono certo passare inosservati, insomma sta per scoppiare tutto. E poi Mick dedica a una donna misteriosa una straordinaria canzone che va subito in testa alle classifiche. La canzone è Dice Mi Manchi e la donna misteriosa è lei, e la traduzione è Miss. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando di una straordinaria icona del fashion internazionale, una supermodella, una bellezza mozzafiato, una bellezza che le apre le porte delle copertine della moda, le regala decine e decine di copertine entrate nella storia. Ma non solo, lei è una grande imprenditrice di se stessa che, come dicevamo prima, sa benissimo che sta seduta sul suo destino e si accaparra alcuni degli uomini più ambiti e più ricchi del mondo, peraltro andando a crescere. Stiamo parlando di Jerry Hall, la nostra protagonista di oggi, che da oltre 40 anni attira l'attenzione pubblica mondiale per la sua vita professionale, ma soprattutto per quella privata, ammesso che in quei casi ci sia una distinzione. E siamo arrivati a un punto cruciale della vita della giovanissima modella che è fidanzata con Brian Ferry, che ha conosciuto l'eccentrico incontenibile Mick Jagger, all'epoca sposato con la modella nicaraguense Bianca Perez Mora Macias, con la quale ha una figlia Jade, e tra i due scoppia una passione incontenibile e soprattutto una passione difficile da tenere nascosta. Insomma, la loro relazione sta per diventare di dominio pubblico. Mentre mi trovavo in viaggio con Mick, continuavo a telefonare a Brian e gli mentivo, gli dicevo che stavo lavorando. Ma una volta lui mi disse: smettila di mentirmi, ho letto di te e di Mick sui giornali, quando torni a casa ne parliamo. Qualcuno del nostro team doveva aver spifferato tutto ai giornali, ma io lo sapevo che Brian non era il tipo di uomo che perdonava, e poi ero troppo innamorata di Mick. Va bene perdonare, ma qui l'abbiamo combinata veramente grossa. Difatti la relazione tra Brian Ferry e Jerry Hall finisce nel peggiore dei modi. Lui le impedisce addirittura di riprendersi le sue cose, non le ridarà mai nemmeno i vestiti che lei teneva nella loro casa, soprattutto non le parlerà mai più. D'altra parte, questa tresca è avvenuta davanti al mondo intero, insomma non sono cose sulle quali un uomo può perdonare. Bianca Jagger, peraltro, intanto avvia le pratiche di divorzio per colpa, ne uscirà molto bene perché il patrimonio di Bianca Jagger le assicura un'esistenza molto, ma molto più che agiata per il resto dei suoi giorni. E insomma, con i soldi si risolve tutto, almeno in questa fase. I due innamorati proseguono, l'amore passa sopra, e anche se Jerry Hall, che è giovane ma non è scema, sa benissimo che ha a che fare con uno come Mick Jagger, uno con la fama di grande amante delle donne, malato di sesso, insomma difficile da tenere a bada. Infatti lei non lo terrà mai a bada, ma intanto si dichiara felice, e questo è il primo passo. Sono molto molto felice. Lui è davvero dolcissimo, è facile perché viaggia tantissimo, io posso lavorare ovunque lavori lui. Se lavora a New York o a Los Angeles o a Parigi o a Londra, per me non è come avere un lavoro dove timbri il cartellino, è facile. Se mi dice devo stare 2 settimane a Parigi, io chiamo la mia agenzia e dico sto arrivando e lavoro lì. Funziona perfettamente. E beh, insomma, niente male, sei tu che scegli dove andare a lavorare tra Parigi, Londra, New York, Los Angeles, insomma, niente male, funziona tutto perfettamente, e quindi i due cominciano a comprare appunto case, New York, Londra, Parigi, vivono sotto i riflettori, sono inseguiti dai paparazzi di tutto il mondo e intanto lavorano e guadagnano. E lei, tra l'altro, per il fatto di essere la fidanzata di Mick Jagger, comincia a ricevere proposte di genere diverso da quello legato alla moda. Per esempio, nell'80 diventa la testimonial della Diet Coke, che lei definisce una rockstar in uno spot comparativo contro la Pepsi. This is it, honey. I'm leaving you. I don't care how cool you think you are, how many generations you say adore you. You just don't excite me anymore. And don't give me that sweet routine. It's just not my style. I've discovered a real pop star. Discover the one-calorie real cola taste worth leaving Pepsi for. Goodbye, Pepsi. Diet Coke, let's rock and roll. Ow! Diet Coke! Va detto che Jerry Hall è una donna decisa, sa bene cosa vuole, pensa al futuro, intanto studia parecchio, si iscrive addirittura all'Actor Studio di New York, dove frequenta i corsi di recitazione di Shelley Winters, e poi si fa mettere incinta, e nell'84 nasce la prima figlia della coppia, Elizabeth, nell'85 arriva il maschio James. Ma qui c'è da fare un ragionamento: da un lato lei trae vantaggio ovviamente per il fatto che cominciano ad arrivare i figli, e questo poi le tornerà utile; d'altro canto però una delle mosse classiche delle rockstar è quella, nel momento in cui ti innamori di una donna, di cominciare a farle fare dei figli, di modo che la donna sta a casa e tu puoi andare in giro a fare la rockstar, e con Mick Jagger sicuramente questo ragionamento è stato messo in atto, e così lei inizia a volere qualcosa di più. Lei vuole sposarsi, lo dice a tutti, e la storia di questo matrimonio che non si fa mai diventa una specie di tormentone sul quale lei arriva perfino a scherzare in televisione durante il Saturday Night Live. Siamo nell'86, lei fa un monologo esilarante. Ho passato un bellissimo San Valentino. Quando mi sono svegliata c'erano rose sul mio letto, un diamante sul mio cuscino e... E poi Mick si è messo in ginocchio e mi ha pregato di sposarlo. Ancora. Non si rassegna. È patetico. Pensate, dopo più di 8 anni e 2 bambini si crede sicuro della nostra relazione. Ma io non intendo sposarlo fin quando non gli passa questa idea assurda di fare la rock star. Abbiamo una relazione molto libera, molto anni 80. Mi incoraggia sempre nella mia carriera. È stata una sua idea che io partecipassi questa sera. In questo momento si trova nel mio camerino a guardare i bambini. Non avete idea della difficoltà di trovare una babysitter a New York di sabato sera. Sì, lei è divertente. È spigliata, sul palco sembra a suo agio, e infatti le sue doti interpretative, insieme ovviamente a quelle fisiche, non passano inosservate. Nell'89 Tim Burton la vuole nel suo Batman, è una piccola parte nel ruolo di Alicia Hunt, che ha una relazione con il The Joker, interpretato dal grande Jack Nicholson. La gente per bene non dovrebbe star qui, sarebbe più felice in qualche altra città. Parole assai dure per Wilson. Non preoccupartene. Se quel clown poteva toccare Grissom, lo avrei già strozzato con le sue budella. Se Grissom sapesse di noi, ti potrebbe strozzare con le tue. Non saprà valutarti, Angelo. Quell'uomo è vecchio e stanco. Non può dominare questa città senza di me. E a parte questo, non sa di noi. Tu non ti preoccupi di niente, vero Jack? Sei in gran forma. Non te l'ho chiesto. Insomma, la carriera di Jerry Hall ormai è decollata pienamente, non solo come supermodella pagatissima, ma anche come attrice, come musa ispiratrice di molti artisti, compreso il suo grande amico Andy Warhol. Ma la sua idea fissa è sempre quella: riuscire a farsi sposare da Mick Jagger. Ascoltate cosa dice a David Letterman il 16 maggio dell'89. You've been together with him. Sei insieme a lui da 12 anni, giusto? Yeah. And when we say together, what do we mean? E quando diciamo insieme, cosa intendi? Avete figli, vero? Abbiamo 2 figli, viviamo insieme. Non siamo sposati. Stiamo per celebrare 12 anni insieme. E cosa farete? Ci scambieremo i numeri di telefono e dei regali costosi. Io il numero di telefono, lui il regalo costoso. Sto scherzando. È una decisione di entrambi o sei tu che vuoi sposarti e lui no? Alcuni di noi ci stanno pensando al matrimonio, ci stanno pensando tanto. In quanti ci state pensando? Lo dici come se fossero coinvolte almeno una mezza dozzina di persone. Il comitato vorrebbe sposarsi. No, è mia figlia che vuole che ci sposiamo. My daughter wants us to get married. Ottima mossa, perché a quel punto mandi avanti i figli, papà papà, perché non sposi la mamma, e qui sì, fai un altro colpo in avanti. Insomma, alla fine ce la fa. Il 21 novembre 1990 i due celebrano una suggestiva cerimonia nuziale a Bali, in Indonesia, un evento mediatico straordinario, però tutti lo vedono più come un contentino dato da Jagger alla madre dei suoi figli piuttosto che una capitolazione del grande conquistatore. infatti Mick Jagger non molla il colpo. Il 12 gennaio del 92 nasce la terza figlia di Jerry e Mick, Georgia May. Il giorno dopo lui è su un aereo diretto in Thailandia assieme a Carla Bruni, che era fidanzata di Eric Clapton. Anche Carla Bruni, insomma, non è una che a livello di ascesa sociale tramite quella cosa lì si sia fatta mancare nulla. I due si sistemano in una villetta del lussuoso Amanpuri Hotel di Phuket, e da un po' che hanno una storia, ovviamente segretissima, ma è su tutti i giornali. Jerry ne è al corrente, gli telefona, gli chiede dove si trovi, gli dice che un marito dovrebbe stare vicino alla moglie che ha appena partorito. In effetti, insomma, andrebbe così normalmente, ma lui è di un'altra opinione, si dà la bella vita, passa da una donna all'altra. Nel 97 nasce il quarto figlio Gabriel, ma quel giorno Mick non c'è e lo vedrà solo dopo una settimana. Ma l'evento insostenibile, quello che Jerry Hall è abituato ai tradimenti non potrà sopportare, arriva nel 99. Lessi su un giornale che una modella brasiliana, una certa Luciana Morad, aspettava un bambino da Mick. Quello fu troppo. Gli dissi che volevo il divorzio. E quella che parte è una vera e propria macchina da guerra. Gli avvocati delle parti non risparmiano nessun colpo, però c'è una notizia che, come dire, è un colpo d'ala, anche se discutibile, da parte di Mick Jagger, perché in realtà Jerry scopre che nessuna carta sancisce che lei sia la signora Jagger. Il matrimonio celebrato a Bali non aveva nessuna validità giuridica e Mick Jagger lo sapeva benissimo. Però ci sono quattro figli che in quei casi sono un bel mitra puntato contro l'uomo. Lei prende una ricchissima buonuscita, una splendida casa a Londra e un vitalizio milionario. Perché quattro figli vanno pur mantenuti. Ma da quel momento in poi lei conduce una vita invidiabile, certo sofferente, ma ben risarcita. Continua a lavorare nella moda, introduce le due figlie nella moda, recita a teatro, interpreta il ruolo di Mrs. Robinson nel Laureato, quello che nel film è della grande Anne Bancroft, va in tournée in tutto il mondo e nel frattempo, poverina, si consola diversi compagni, amanti, fidanzati, ovviamente tutti ricchi e piacenti. Ma il suo ultimo colpo d'ala, almeno per adesso, perché da una così c'è da aspettarsi di tutto, è un colpo d'ala degno di una donna piena di risorse. Lo squalo all'attacco per amore. Il magnate dei media Rupert Murdoch, 84 anni, ha annunciato che sposerà l'attrice ed ex supermodella Jerry Hall, 59 anni, ex compagna del frontman dei Rolling Stone Mick Jagger. La coppia ha scelto il quotidiano britannico The Times, di proprietà dello stesso Murdoch, per ufficializzare il fidanzamento dopo 4 mesi di relazione, anche se non è stata comunicata una data per le nozze. Ma la notizia ha fatto subito il giro del mondo. L'amore è nato alla fine dell'estate, quando i due sono stati presentati da una delle sorelle di Murdoch in Australia. In due hanno 10 figli. Mick Jagger si dichiara sconvolto e inorridito, ma insomma non è neanche francamente lui che può scagliare la prima pietra. Fatto sta che il 4 marzo 2016 Jerry Hall diventa la signora Murdoch, cioè sposa Rupert Murdoch, editore, imprenditore, produttore televisivo, uno degli uomini più ricchi, più influenti, più chiacchierati del mondo. In pratica Jerry Hall arriva al culmine della sua salita, un impero nelle sue mani. Chissà se per il futuro ci riserverà altre divertenti sorprese. Insomma, il Papa è ancora scapolo, per esempio. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno saputo volare in alto, sempre più in alto, anche con programmata sensualità. La bellissima, intelligentissima e scaltrissima Jerry Hall di ascese ne ha fatte parecchie, ma ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, oppure al nostro sito radio24.it, oppure venite a cercarmi sui miei Facebook, Twitter, su quelli della trasmissione, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.